Sono le ore 10 e 18 di domenica 21 aprile 2024. Stamattina è successa una cosa un po' strana, cioè io qualsiasi tasto provassi a toccare del decoder Sky Q, alla fine lo schermo mostrava invariabilmente sempre il solito documentario sulla vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006. E quindi forse, non so, è un segno del destino, a volte bisogna anche assecondare la cosiddetta glitch art, cioè l'arte dell'errore tecnologico. E quindi forse magari dobbiamo riflettere sul Mondiale 2006, su tutto quello che è cambiato anche in generale nel paese dal 2006 a oggi, e anche su, ecco, una cosa che chi ha più o meno la mia età confronta, si ritrova a confrontare, sono le due vittorie, quella del mondiale epico, quella dell'82, dove più o meno chi aveva la mia età era adolescente, e poi la vittoria della maturità, quella del 2006. Sono molto molto diverse, perché quella dell'82 si colloca come cesura tra la fine del calcio romantico, che muore forse con il Brasile di Pelé, e l'inizio del calcio industriale, di cui l'Italia all'inizio è appunto campione del mondo a partire dall'82, ma ancora poi per svariati anni, soprattutto considerato il giro d'affari che ruotava intorno al campionato italiano, che attirava tutti i giocatori più forti del mondo. E nel mondiale dell'82, il mondiale epico, concorrono quasi tutti gli elementi dell'epica sportiva: il campione risorto dalle sue ceneri, Paolo Rossi naturalmente, l'uomo d'esperienza, il Jedi, impenetrabile, moralmente inattaccabile, superiore rispetto a un mondo superficiale di chiacchiere che lo circondano, e parlo di Dino Zoff. E tra l'altro, ecco, fu molto molto interessante quello che disse Michel Hidalgo prima di quel mondiale, dell'82, quando disse: ma secondo me l'Italia è favorita. E era un po' strano, perché insomma c'era il Brasile di Zico e Socrates davanti, c'era anche l'Argentina di Maradona, insomma c'erano molte squadre più quotate. Disse: no, ma la verità è che l'Italia è l'unica squadra che ha un grandissimo portiere e un grandissimo centravanti. E lui parlava, diciamo, forse a ragion veduta, perché la sua Francia aveva tantissimi grandi centrocampisti, e poi aveva anche Platini, che però non giocava centravanti ancora con Hidalgo, nella prima fase quantomeno, e non riusciva a vincere grandi trofei. Avrebbe cominciato a vincere l'europeo in casa, e poi in realtà la Francia vinse i mondiali con giocatori completamente diversi più avanti. E Hidalgo invece apprezzava tantissimo Berzot, credeva molto nella resurrezione di Paolo Rossi, ed era ovviamente affascinato come tutti dalla figura di Dino Zoff. In mezzo però, chiaramente, tra centravanti e portiere c'erano dei giocatori straordinari, c'erano dei frombolieri incredibili come Bruno Conti, c'erano dei terzini straordinariamente moderni come Cabrini, poi c'erano dei giocatori universali come Tardelli, difensori arcigni ma capaci di annullare Zico e Maradona come Gentile, forse con l'aiuto dell'arbitro, qualcuno disse. E poi non va sottovalutato per esempio neanche Ciccio Graziani, che fece sì soltanto un gol ma decisivo contro il Camerun, ma che soprattutto creò spazi per Paolo Rossi per tutto il mondiale. Senza un attaccante come Graziani, forse Rossi non sarebbe stato in grado di fare quello che ha fatto, di questo rimango convinto. E poi Oriali, Collovati, Scirea, monumentale libero di quella squadra. Insomma, l'82 segna l'inizio del secondo miracolo economico, la fine anche degli anni di piombo, la resurrezione con Rossi forse di un intero paese. Poi però abbiamo visto su quali basi molto fragili il paese sarebbe risorto. Il 2006 arriva col calcio industriale italiano già completamente superato a destra e a sinistra da potenze industriali superiori, arriva con una generazione di campioni formidabili, ma anche in grande difficoltà, cioè tutte quelle che devono essere le star di quel mondiale arrivano in scarsa condizione di forma, come Del Piero, oppure in condizione di ovvia empirica difficoltà, come Totti, che arriva praticamente al 60%, recupera sì dall'infortunio molto complicato alla caviglia, Lippi lo vuole a tutti i costi, finisce per schierarlo titolare praticamente in tutte le partite tranne quella con l'Australia, e poi però alla fine ha ragione Lippi. Quindi chi dice che Totti non è stato decisivo allora dovrebbe dire che abbiamo vinto il mondiale nonostante Totti e quindi nonostante Lippi, cosa che mi sembra un po' difficile da affermare. Infatti poi alla fine Totti, pur al 60-65%, confeziona 5 assist in quel mondiale, oltre al rigore contro l'Australia, che ha più un valore secondo me simbolico che altro della sua partecipazione, esatto, che è stata molto più, diciamo, nel gioco di movimento, dove tutti gli altri si muovevano intorno a lui, evidentemente lui faceva muovere soprattutto il pallone. Ma ovviamente i protagonisti sono stati altri, no? Cioè, è stato il mondiale dei gregari, dei Gattuso, dei Cannavaro, forse l'unica vera... Cannavaro, che poi vinse anche il pallone d'oro, insomma, non dimentichiamo, la prima volta per un difensore. L'unica vera star all'apice della sua forma fu forse Buffon, che effettivamente in quel mondiale parò cose incredibili, compreso un colpo di testa di Zidane nella finale, che ancora ci chiediamo come sia riuscito a farlo. Ecco, oggi facevano vedere di nuovo le immagini della finale, Italia-Francia. Davanti al teleschermo io ricordo molto bene che tutti avevamo la netta sensazione che la Francia fosse tecnicamente superiore, tra l'altro trascinata da un campione in stato di grazia, Zidane, che aveva praticamente dormito durante il girone eliminatorio. Poi quando le partite hanno cominciato a essere decisive ci regalò forse il suo miglior calcio e nessuno si aspettava che nella finale anche tirasse fuori il suo lato peggiore. Fatto sta che in quella partita però si vede anche da un lato tantissimi grandi campioni e dall'altra parte però un vero gruppo che Lippi era riuscito a costruire, a differenza di Domenech, che sotto questo profilo forse non era il miglior allenatore possibile per quella nazionale. E infatti in qualche modo l'Italia reagisce al rigore ingiusto per il non fallo, diciamolo, su Malouda, che si tuffa in area in mezzo a due italiani, d'accordo, ma si tuffa evidentemente, e poi però c'è questa reazione anche all'ingiustizia di una squadra che sapeva bene che non c'era nessuna volontà che vincesse. Ricordiamo che Blatter abbandonò lo stadio pur di non essere lui a consegnare la Coppa del Mondo agli italiani, e questo ricorda un po' anche quando Hitler abbandonò l'Olympia Stadium a Berlino nel 1936 pur di non dover in qualche modo omaggiare la vittoria di Jesse Owens. E quello che accade poi è abbastanza, cioè non ha molto a che vedere con la nostra idea romantica di calcio, cioè un gruppo di uomini che risorgono dalle loro difficoltà, lottano fino all'ultimo, anche i rimpiazzi, i ricambi. Totti nella finale gioca male, viene sostituito, entrano in campo altri giocatori che non avevano fatto molto, alcuni addirittura si erano auto esclusi dal mondiale come De Rossi, e risultano persino loro decisivi. Quel calcio nervoso, quel calcio che ci aveva visto tante volte sconfitti, i famosi calci di rigore, alla fine insomma una sorta di nemesi, non saprei come dire, ci vede alzare una Coppa del Mondo che non è più la Coppa del Mondo di un paese vincente, di un paese miracolato economicamente, ma è un paese che ha già rivelato tutte le debolezze sue e forse dell'idea stessa di una certa idea stessa di crescita, no? E mentre dall'altra parte premono le forze globali che rendono l'Europa sempre più residuale, e se ci pensate anche la Francia con tutti questi giocatori che erano francesi di seconda e terza generazione ne è la metafora perfetta. Ecco, secondo me queste sono le differenze tra i due mondiali, e anche su questo, se la vedete come me oppure no, mi piacerebbe il vostro contributo. Grazie.